primo brano. Una serva non sta passando nel dietro al mio volto, come è vero che invece non ho più gol. Se mi dico ancora ragione, io non mi sento soffocato, sono giocato soffocato. Tiro non c'è spazio, non mi lasciano ascoltare i miei desideri senza soltanto tempo, chiusi a chiave. Da troppo tempo chiusi a chiave. Come un albero che invece è il mio, e io non ho più